Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi ci dedichiamo a uno sport molto diffuso, il più diffuso, forse secondo solo al parlar male della politica, cioè il parlar male dei giornali e dei giornalisti. Questa volta lo fa uno dei maestri del giornalismo italiano, e cioè Giampaolo Pansa, che non è per la verità affatto tenero con la categoria alla quale appartiene, fin dalla categoria del libro che vi presento, che si intitola Carta Straccia. È pubblicato da Rizzoli, 428 pagine, 19,90 euro. Perché Carta Straccia? Perché questo, spiega l'autore, è un libro sull'Italia di oggi e non soltanto sui i partiti. Pansa spiega di voler raccontare del nostro disgraziato paese e sceglie di farlo camminando su un terreno che crede di conoscere bene, cioè i giornali, perché ci vive dentro da mezzo secolo. Certo, la stampa e l'informazione sono sottoposti in questo libro a una critica durissima, se non devastante, riconducibile sostanzialmente a una diffusa faziosità in tutti i giornali e che caratterizza gran parte del sistema attuale e che vizia l'atteggiamento che invece dovrebbe essere quello più naturale per i giornalisti, cioè non schierarsi ma descrivere e cercare i lettori e gli ascoltatori di far capire. Le vicende degli ultimi anni sono rilette da Pansa quindi attraverso l'informazione, e lo fa appunto un testimone eccezionale, anzi un artefice privilegiato come Pansa, che è stato uno dei maestri del giornalismo italiano, avendo lavorato tra l'altro anche al Corriere e a Repubblica, di cui è stato tra l'altro anche vice direttore. Proprio Repubblica, per la verità, invece, viene criticato oggi in questo libro di essere il campione di questa faziosità, anzi, come scrive l'autore, di una nauseante guerriglia faziosa scatenata contro Berlusconi. Ma sentiamo l'autore per farci spiegare qualche tratto del suo libro. Buongiorno a Giampaolo Pansa. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Allora, Giampaolo Pansa, Carta Straccia, mi pare che lei sia stato abbastanza facile profeta nel suo libro, nell'immaginare che i suoi colleghi non avrebbero poi mostrato troppo interesse per questo libro e per le critiche soprattutto che lei rivolge alla categoria dei giornalisti, o mi sbaglio? Ma questo non lo so, perché il libro è stato molto recensito, criticato, approvato da tanti giornali, poi naturalmente i giornali che erano più colpiti dal mio libraccio se ne sono ben guardati dal parlarne, però il risultato, il libro è uscito il 4 maggio, oggi sono 3 mesi e qualche giorno, ha fatto 10 edizioni, ha venduto più di 100.000 copie e quindi il problema vero non sono i miei colleghi, il mio libro non era diretto a loro, era diretto al pubblico, se vuole le spiego quello che ho capito a proposito del successo di questo lavoro. Certo, che idea si è fatto lei? Ma all'inizio ero convinto che il libro comunque sarebbe andato bene, perché ho una penso, non voglio passare per presuntuoso, una schiera di lettori che mi segue in modo molto fedele. Poi in realtà molti librai mi hanno spiegato il perché questo libro andava a ruba e va ancora a ruba. Perché c'è un'ondata che lei conosce quanto me e che Radio 24 documenta sempre molto bene, di antipolitica, di critica ai partiti, al sistema di quella che venne chiamata la casta, che continuiamo giustamente a chiamare in questo modo, e questa ondata di rabbia, di discredito, di rifiuto, si è rivolta, ahimè, anche contro noi giornalisti, che siamo visti come degli animali identici a quelli dello zoo, della casta. Ecco perché tanta gente, essendosi resa conto che esisteva questo libro, scritto da un giornalista senior, cioè con i capelli bianchi, che non le risparmiava il pollaio in cui anche lui è cresciuto e continua poi a stare a scrivere, e si è precipitata a comprarlo. Poi alcuni librai dicevano: il libro è anche molto divertente, è scritto in modo chiaro, non è in un italiano ermetico come molti saggisti usano, e quindi si è formato questo impasto di congiure e di positive, per cui il successo di questo libro ha sorpreso tutti. Ecco, lei nel suo libro descrive, oltre che questo clima antipolitico al quale ha accennato, anche qualche cosa di più, nel senso che lei scrive sostanzialmente che i giornali sono oggi parte di una, di quella che lei chiama guerra civile a bassa intensità. Una denuncia molto grave sulla condizione della politica, anche non soltanto italiana. Ma guardi, è una denuncia, se vogliamo usare questo parolone, che io faccio ormai da parecchio tempo, lo faccio nei miei articoli, prima sul Riformista e poi sul Libero, oggi soltanto sul Libero, che ho fatto in molte interviste, che ho fatto, che faccio ogni giorno tra me e me leggendo 11 giornali. La carta stampata e soprattutto poi il cosiddetto giornalismo televisivo è diventato talmente fazioso e talmente schierato, per cui diventa fatalmente una parte attiva in quella che io ho chiamato guerra civile di bassa intensità, nel senso per ora di parole, ma che vedo ogni giorno aggravarsi sempre di più. Quindi è una nemesi alla quale anche i giornali non riescono a sfuggire. Poi c'è chi se la cava un po' meglio degli altri, visto che sono in casa 24 ore, devo dire che uno, un quotidiano che se la cava molto bene è Il Sole 24 ore, altri che sono faziosi ma non lo nascondono, ma soprattutto c'è una categoria molto ampia che io descrivo nel mio libro con nomi di testate, di direttori, di giornalisti, che è diventata di una faziosità impressionante, ma pretende sempre di essere considerata una tribuna equilibrata, imparziale, dalla quale distribuire poi paternali al mondo intero. Senza poi avere particolare efficacia, perché come lei scrive alla fine del suo libro, alla fine appunto questa guerra si è rivolta soprattutto contro Berlusconi, e Berlusconi dal 1994 a oggi è ancora in sella. L'ultimo capitolo del libro, che è dedicato a, che era poi la chiusura di questo discorso, che io ho scritto alla fine di gennaio di quest'anno, è intitolato Tramonto. Berlusconi tramonterà, anzi secondo me è già tramontato, è un morto politico che cammina, non so se è un'espressione troppo forte da usare in una radio, ma la uso, ma soltanto per errori suoi. I giornali, la prova migliore è che Repubblica conduce una guerra quotidiana senza risparmio di colpi contro il Cavaliere, perlomeno dal 2008 in poi, e non è mai riuscito a sbalzarlo dalla sella, sta sempre lì e se ne andrà via come se ne sta, secondo me, già andando via, anche se la sua partenza non è ancora, come dire, confermata nero su bianco, solo per degli errori terribili suoi, perché in realtà i giornali pensano di avere potere, ma non hanno molto potere. Anzi, il sottotitolo di Carta Straccia recita Il potere inutile dei giornalisti italiani. Eravamo rimasti incerti, l'editore e io, se usare invece che l'aggettivo inutile, l'aggettivo inesistente. E poi era troppo lungo e finiva con lo sbattere contro il margine destro della copertina, allora abbiamo usato inutile, ma il senso è lo stesso. E poi sullo sfondo c'è una società civile che, come lei descrive, come lei definisce, mitica, non sempre fornisce personaggi adatti alla politica. C'è una sopravvalutazione di questo ruolo. Ma certo, perché in realtà anche la società civile italiana, che comunque nel complesso è meglio di quella dei partiti, risente fatalmente del clima generale, che non è fatto soltanto dal clima politico, ma è fatto dal clima sociale, dal clima culturale del paese. L'Italia è una nazione in declino, lo si vede dalla scuola, lo si vede dal comportamento dei giovani, delle famiglie, lo si vede tra i rapporti tra le persone. Io, grazie a Dio, non vivo più in una grande città, ma se dovessi tornare a stare a Roma, per esempio, dove ho vissuto per più di 20 anni, avrei paura di quello che si vede anche per le strade, ma persino da come parcheggiamo le macchine, nei parcheggi segnalati dalle righe bianche, fanno capire che siamo in declino. A me è capitato di dire a un signore: mi fa parcheggiare la mia Panda, lei ha occupato 2 posti, e lui mi ha risposto in modo aggressivo: lei si faccia i cazzi suoi. Il diavolo si nasconde nei particolari, come dice un vecchio detto. Grazie a Giampaolo Pansa, autore di Carta Straccia. Buona domenica. Grazie a voi, un abbraccio a tutti. Grazie, grazie. Grazie. E adesso parliamo di 2 giornalisti che sono alle prese con un tema simile, quello del rapporto tra Nord e Sud. Il primo libro è quello del direttore del Corriere del Mezzogiorno, Marco De Marco, che ha scritto Terronismo, Perché l'orgoglio sudista e il pregiudizio nordista stanno spaccando l'Italia in due, pubblicato da Rizzoli, 264 pagine, 17 euro. Che cosa significa terronismo? Ce lo spiega l'autore, definendolo come la convergenza di due opposti localismi, quello del nord che odia il sud e quello del sud che odia ancora i Savoia. Da questo processo, spiega l'autore, deriva un comportamento che rimanda a un'Italia disunita e pre-risorgimentale, che piace al localismo centrifugato. I terronisti, continua, sono quelli che fanno finta di non sapere perché Ferdinando II si sia guadagnato l'appellativo di re bomba. Ma insomma, il terronismo è la deformazione, scrive De Marco, di quel localismo che in Italia prende forma quando, a cavallo tra gli anni 80 e 90, va in tilt la spesa pubblica, esplode lo scandalo di Tangentopoli e cominciano a scarseggiare le risorse finanziarie. E qui De Marco esamina anche molti episodi storici, quelli sui quali i terronisti fanno leva per denunciare la oppressione alla quale sarebbe stato sottoposto il Mezzogiorno d'Italia, per ricordare De Marco che quegli episodi spesso furono accompagnati da episodi altrettanto gravi, drammatici e tragici da parte dei briganti e dei simpatizzanti dei Borboni. L'altro libro è quello di Romano Bracalini, si intitola Brandelli d'Italia, pubblicato da Rubbettino, sottotitolo 150 anni di conflitti nord-sud, 340 pagine, 19 euro. E qui la sensibilità è ben diversa. L'Italia appare all'autore una costruzione artificiale, scrive Bracalini, che l'Italia così com'è non può durare. Il nord gallo cisalpino è stanco di sovvenzionare un sud includente, probabilmente sarà inconcludente, passivo, che dilapida i capitali in un quadro impressionante di corruzione e degrado. E qua si passa in rassegna in maniera critica l'unità, il regno e il dopoguerra, sempre con un atteggiamento molto franco nei confronti del sud, al quale l'autore non lesina critiche sempre molto documentate. Il risultato è che il divario si allarga e che l'Italia sempre più diventano due. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, parliamo adesso di donne. Cominciamo con un libro che ripercorre la storia d'Italia attraverso l'evoluzione della condizione femminile. L'autore è uno storico scozzese, Perry Wilson, e il libro si intitola Italiane, biografia del Novecento, pubblicato dalla Terza, 358 pagine, 24 euro, ed è tradotto da Paola Marangon. Nel libro partiamo dagli albori del Novecento per seguire le trasformazioni della condizione delle donne italiane, un processo che è stato particolarmente lungo, complicato, difficile, che ha dovuto vincere molte resistenze. Lo stesso Partito Socialista, per esempio, agli inizi del secolo scorso non era affatto unanimemente convinto dell'opportunità di impegnarsi per il voto alle donne, e la Kuleshov si dovette scontrare anche col suo compagno Filippo Turati proprio su questo tema. E quindi l'impegno per l'elettorato femminile fu un impegno molto tiepido da parte dei grandi partiti. Il voto femminile arrivò, come ricordiamo, nel 1946 ed è così descritto nel libro di Wilson. Le italiane votarono per la prima volta nel 1946. Si pone spesso la questione se il suffragio sia stato conquistato dalle donne o se sia stato semplicemente concesso. In realtà sono vere entrambe le affermazioni. L'interrogativo è dovuto al fatto che la legge sul suffragio fu approvata durante la guerra, in un momento in cui in gran parte d'Italia era impossibile condurre un dibattito pubblico e aperto, dato che il Nord era ancora controllato dai nazifascisti. Il suffragio universale giunse quindi senza cerimonie e squilli di trombe e con poche discussioni. Il provvedimento fu approvato dal governo Bonomi, organo nominato composto di rappresentanti dei partiti della Resistenza, il 1 febbraio 1945. L'estensione del diritto di voto fu decisa quasi come se fosse ovvia, una questione che non meritava nemmeno di essere discussa. Il governo Bonomi approvò il provvedimento all'unanimità, praticamente senza discussione. Di conseguenza, fu ignorato per anni dagli storici come un non evento. Persino all'epoca alcuni risero alle donne perché avevano ottenuto il voto senza alcuno sforzo. L'opinione maschile era divisa. Alcuni uomini archiviarono il suffragio femminile come questione irrilevante, convinti che le donne avrebbero votato seguendo le istruzioni dei mariti. Altri invece si sentirono a disagio perché il voto a scrutinio segreto minacciava la loro autorità sulle mogli. Molti ritenevano che le donne non fossero pronte a votare o pensavano che non si sarebbero prese il disturbo di farlo. Su quest'ultimo punto sarebbero stati completamente smentiti. Nel 1946 l'81% delle elettrici, contro l'83% degli elettori, partecipò alle consultazioni amministrative e l'89%, 89,2% degli uomini, alle elezioni politiche. Ma nel libro non c'è soltanto la politica, si parla della posizione nella famiglia, del lavoro, della scoperta del consumismo, della libertà sessuale, del femminismo, tutti aspetti che vengono passati in rassegna per concludere che le italiane hanno compiuto progressi straordinari nel corso dell'ultimo secolo, leggo dal libro, e con un risultato che però all'autore pare pieno di contraddizioni. L'Italia alla fine del millennio risulta essere una nazione che ama i bambini ma ne produce pochissimi, nella quale molti praticano sia il cattolicesimo sia il controllo delle nascite, un paese in cui molto spesso il peso dei lavori domestici grava ancora sulle sole spalle femminili, un paese in cui infine vige la parità giuridica formale ma persistono le diseguaglianze e in cui la maggior parte delle famiglie è nucleare eppure le reti parentali continuano ad avere un'importanza vitale. In breve, le relazioni di genere in Italia, scrive Wilson, alla fine del XX secolo sono caratterizzate da un affascinante intreccio tra modernità e tradizione. La tradizione più consolidata, direi anche più cupa nella condizione femminile è quella che viene esposta in un libro drammatico, il libro di Asia Bibi, scritto con Anne-Isabelle Thorier, Blasfema, condannata a morte per un sorso d'acqua, è pubblicata da Mondadori, 10 euro, ed è tradotto da Luca Vanni. Il caso è ormai famoso in tutto il mondo. Asia Bibi è la pakistana che è stata condannata a morte nel suo paese per aver bevuto, lei cristiana, da un pozzo che è riservato alle donne musulmane che si sono lamentate di essere state profanate. E la vicenda ha appassionato appunto tante persone nel mondo fino a diventare un simbolo della condizione femminile nella quale si trovano molte donne nei paesi islamici. Asia Bibi è ancora in attesa di un processo d'appello che stenta a essere organizzato perché molti giudici rinunciano proprio per rimandare il riesame del suo caso, e nel libro appunto abbiamo la descrizione di questa vicenda assurda, incredibile, che ha commosso tutto il mondo. Guardo le mie compagne di raccolta con le teste e le mani affondate nei cespugli o nelle bacinelle. Sembrano completamente concentrate sul lavoro. Nonostante il caldo, continuano la loro opera con la stessa lena con cui hanno iniziato. Prendo un secchio d'acqua e vi immergo il vecchio bicchiere posato sul bordo del pozzo. Sento scendere l'acqua fresca. Bevo a grandi sorsi, sto meglio, ne prendo ancora. A un certo punto odo un mormorio. Non ci faccio caso e riempio il bicchiere un'altra volta, per porgerlo a una donna accanto a me, che sembra affaticata. Lei allunga il braccio con un sorriso. In quel preciso istante Musarat solleva dai cespugli la sua testa da faina e con gli occhi pieni di odio esclama: «Non bere quell'acqua, è haram!» Ho un sussulto e rovescio il bicchiere prima che la donna abbia potuto bere. Musarat si rivolge a tutte le donne impegnate nella raccolta, che all'udire la parola «haram» hanno interrotto di colpo il lavoro. «Ascoltatemi tutte! Questa cristiana ha contaminato l'acqua del pozzo, bevendo nel nostro bicchiere e immergendo più volte il secchio nel pozzo. Adesso l'acqua è impura. Per colpa sua non possiamo più bere. L'ingiustizia è tale che, per una volta, decido di difendermi e di affrontare a testa alta quella vecchia strega di Musarat. Io penso che su questa cosa Gesù la penserebbe in modo diverso da Maometto. Lurida bestia, come osi pensare al posto del profeta?» tuona Musarat. Cambiamo completamente genere con un simbolo dell'emancipazione femminile, questa, una protagonista del fumetto italiano, che è Valentina, la creatura di Guido Crepax, che ritorna in Relazioni pericolose, tre storie realizzate tra il 1973 e il 1982, riproposte da Salani, 152 pagine, 12 euro, e commentate da Luisa e Antonio Crepax, i quali ci illustrano queste tre storie sentimentali di Valentina che offrono uno specchio che molti ricorderanno dell'Italia degli anni Ottanta. Continua invece a catturare l'attenzione delle ascoltatrici con un argomento molto più futile, ma in fondo non meno affascinante, ossia la storia di una delle armi più importanti per la seduzione femminile, cioè il profumo, anzi un profumo unico, lo Chanel numero 5, che ritroviamo nel libro di Tilar Mazzeo, che è una studiosa di vino e di lusso, che ha pubblicato con Lindau Il segreto di Chanel numero 5, la storia del più famoso profumo del mondo e di chi l'ha creato, 330 pagine, 19,50 euro, tradotto da Serena Bestetto. Lo Chanel numero 5, appunto, è stato giudicato il profumo più sensuale del mondo, benché abbia ormai un'età ragguardevole, 90 anni, che non gli impediscono di essere una delle icone dell'eleganza più diffuse nel mondo. Scrive infatti l'autrice che il governo francese ha rivelato che in tutto il mondo se ne vende una bottiglia ogni 30 secondi, per un guadagno totale di 100 milioni di dollari ogni anno. Ma perché il numero 5? Perché il profumiere Hervé Bot aveva proposto a Coco Chanel 10 prove, in campioncini numerati, dei quali la grande stilista scelse appunto il numero 5, che fra l'altro, secondo la leggenda, sarebbe stato un campione sbagliato, frutto di un errore, perché un assistente aveva versato una quantità eccessiva di un ingrediente chimico, le aldeidi, che in realtà contribuiscono a formare questo mix unico che mette insieme appunto la sensualità di essenze fiorite di rosa e di gelsomino con il frutto della chimica. Fatto sta che Coco riconobbe quel profumo come il campione di cui andava in cerca, e il libro spiega dunque come nasce, come si lancia e si sviluppa un prodotto di successo che in questo caso è diventato un oggetto di culto e un simbolo di uno stile di vita. E a questo punto... Il confettino. Non possiamo naturalmente non concludere che con una bambina che ci propone una scrittrice, Lodovica Cima, nel libro 7 più 7 più 7, tre storie lungo una settimana, pubblicato da Rizzoli, 118 pagine, 8,90 euro. Si tratta del diario di una vacanza in varie tappe, prima col papà in moto, poi a Parigi da sola a scoprire i misteri e le delizie del francese, e tappe che rappresentano un'occasione per fissare i ricordi e abituano a scrivere con un amico che non tradisce mai, appunto il diario. E con questo ringrazio Claudio Ricifera in redazione, Valeria Bernardi in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, nel quale potete riascoltare sempre queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento alla settimana prossima.